Aumentare la produttività è l'unica strada per migliorare il livello delle retribuzioni. Negli ultimi 6 anni le retribuzioni reali sono salite più della produttività e questo è esattamente l'inverso di quello che è avvenuto ad esempio in Germania nello stesso periodo. Più 0,7% all'anno nel manifatturiero contro una diminuzione dello 0,6% all'anno della produttività. La produttività è tornata a salire a partire dal 2006 nell'industria, ma ciò rischia di essere vano se non c'è uno sforzo in tutto il paese. Ognuno deve fare la sua parte. La produttività è centrale per la crescita.